Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchesi. Oggi è il 12 gennaio, è la prima edizione di Italia in controluce, il consueto approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, sulla politica locale, sui casi di Nera e di giudiziaria, quelli vecchi e quelli nuovi, le curiosità, il costume, lo spettacolo e la cultura. La prima di Italia in controluce è decisamente una brutta storia che viene da Palermo. La racconta per noi Maria Luisa Pezzali. A Palermo non c'è pace neanche per i morti. Nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, il più grande della città, dove fra gli altri è sepolto il giudice Paolo Borsellino, da anni l'emergenza sepolture lascia spazio a un racket cimiteriale sempre più incontrollabile. Da settimane però questa emergenza è diventata insostenibile. Mancano i loculi, le bare in attesa di sepoltura sono ormai una settantina. Prima sono state accatastate nella sala mostre, poi nelle camere mortuarie con incidenti da film horror indegni di un paese civile. Ora sono nei depositi temporanei del cimitero. Ecco le testimonianze raccolte dal telegiornale di Sicilia in occasione della commemorazione dei defunti. È morto mio suocero, noi figli abbiamo quantomeno il dovere di dare una sepoltura cristiana. Entrando subito in questa sala ho visto delle bare a terra che neanche sembrano delle persone, ma sembrano degli animali buttati a terra. Da 5 anni la zona alta del Camposanto, soggetta a caduta massi, è off limits. I familiari non possono visitare i loro cari. C'è l'erba alta, punto e basta. Chi vuole si arrampica, chi ci arriva, chi non vuole se ne torna, non può fare diversamente. Per non parlare della scarsa manutenzione del cimitero, costata una brutta avventura il setto nasale rotto qualche giorno fa a una signora, precipitata all'interno di una cappella a causa della rottura di una vecchia lapide. Per estrarla dal sottosuolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. In questo scenario il dirigente del servizio cimiteriale del comune, Gabriele Marchese, ha ricevuto minacce di morte da un impresario dell'edilizia funebre legato al clan dei Lo Cicero. Ha dato fastidio perché ha fatto requisire loculi abusivi, incompleti, disseminati nel Camposanto, quelli che il circuito illegale vende al miglior offerente. Questo tizio è venuto nella mia stanza, mi ha dichiarato: io ti scanno con un viteddu, ti aspetto in Viale Lasse e ti scanno con un viteddu, ti pare un ti canuscio, che facevi un barbiere in via Imperatore Federico e facevi un vigile urbano, tu mi dai concessioni. Queste sono le frasi che io riporto nell'esposto che ho mandato in procura. Tanto a me non mi possono fare niente. Dal 2007 Marchese è subentrato a Giuseppe Spata, coinvolto nell'inchiesta che indaga sull'assegnazione di cappelle gentilizie in cambio di denaro. Continuo il mio lavoro, non mi lascio intimidire, ci dice. Sono pagato per fare il dirigente del comune, per gestire le situazioni amministrative del comune. Mi sembra doveroso andare avanti. Presto, per tamponare l'emergenza, Marchese dovrà requisire temporaneamente le tombe vuote dei privati, un provvedimento annunciato che ha già sollevato malumori e ricorsi al TAR. Anche negli altri 2 cimiteri pubblici, Cappuccini e Santa Maria di Gesù, la situazione è critica. Siamo praticamente arrivati, non abbiamo più dove mettere le salme sostanzialmente. Più tempo passa, più difficile trovare sepolture disponibili da utilizzare come depositi in attesa che si liberino i campi, e noi stiamo impegnando i campi futuri. Ad esempio abbiamo occupato un campo che si libererà a marzo 2011 ed è già tutto impegnato dalle salme che attualmente sono a deposito nei loculi. Già siamo impegnando il futuro come spazi, non so se è chiaro. Per un nuovo cimitero il bando è già stato fatto, ma tutto è fermo. È stata una truffa, secondo me. Nel 2007 chi c'era all'epoca ha fatto un bando per l'assegnazione di lotti di terreno in un cimitero che non c'è. Si è pubblicizzato un bando che sicuramente non avrebbe prodotto alcun risultato, come di fatto non l'ha prodotto. Non so se è chiaro, è stato presentato il progetto nel 2010, il bando è del 2007. È un po' la Fontana di Trevi, scusi la battuta, con la differenza che almeno la Fontana di Trevi c'era. L'alternativa è il cimitero di Sant'Orsola, cimitero privato gestito da una congregazione religiosa che concede i posti disponibili per cifre che vanno dai 2.000 ai 6.000 euro. Da quando io sono qui mi hanno più di una volta proposto di fare un accordo con loro, con convenzione già scritta, quindi solo da firmare, per mandare le salme lì. non ho firmato. Io ho detto, io non lo firmo, se volete firmatelo voi. Abbiamo affidato la riflessione finale all'ironia di un palermitano doc, l'attore e scrittore Pino Caruso. Quando la vita è vissuta male, ci dice, anche la morte ne risente. Quando si dice la vita è vissuta male si intende la moralità, non il moralismo, la moralità. Il problema è che la civiltà comincia quando la moralità si fa cultura e costume. Cioè oggi chi è onesto è meglio che si dia alla latitanza, perché con questo principio immorale fra un po' chi è onesto finisce in galera. A questo punto a Palermo vietato morire, insomma. Questo divieto è l'unica cosa sulla quale tutti siamo d'accordo all'unanimità. Italia in controluce. Crescono in Italia i media interculturali, il reportage di Nicola Accardo. Sono circa 150 tra riviste, siti di informazione, radio e web TV. I media interculturali coinvolgono le comunità etniche delle metropoli italiane e cercano di colmare un vuoto, la scarsa voce in capitolo che gli immigrati hanno nell'opinione pubblica. Queste mancanze determinano un certo pensiero che l'opinione pubblica italiana si fa dell'immigrazione, e non necessariamente corrispondente a quello che gli immigrati sono, anzi non corrispondente per niente. E la più grande sfida che abbiamo oggi come giornalismo, come politica, come società civile in generale è recuperare il senso della verità. Il camerunense Raymond Essi è il fondatore di Radio Asterisco, una piccola emittente che dal 2003 trasmette da un garage della periferia di Bologna. 7 anni dopo, Raymond è assessore alla cultura nel comune di San Lazzaro. La sua è diventata la web radio più ascoltata dagli stranieri in Italia. Asterisco è l'invio, il rinvio alle note di piedipagina. Questo sarebbe l'asterisco che si mette quando si scrive, no? E quindi noi leggevamo gli articoli e ascoltavamo le radio, le televisioni italiane in generale e ci rendevamo conto che mancava tutto quel che ci riguarda. Allora abbiamo detto, ci mettiamo un asterisco per andare a spiegare meglio noi. 大家好，我是陈宪晓 Asterisco Radio 是一个多元文化电台。 I media gestiti dagli stranieri sono fioriti in Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni grazie a importanti finanziamenti pubblici. L'assessore regionale alla cultura, Teresa Marzocchi. Noi valorizziamo moltissimo le reti, quindi quella dei media, ma anche i centri interculturali, le associazioni culturali diverse. Noi abbiamo risposto per il passato con un finanziamento che, a dire la verità, non so quanto riuscirò a garantire, perché la crisi, stiamo facendo il bilancio e la manovra ci sta tagliando le gambe. La regione ha creato una rete che si chiama MIER, Media Interculturali Emilia-Romagna. Il presidente e lo scrittore algerino Tahar Lamri, firma di punta della rivista di Ravenna Città Meticcia. Il sito Albania News, ad esempio, è un sito che è molto visitato, ha un numero altissimo di visite. Crossing TV, anche questo è un sito che è visitato e imitato anche, perché sono nati altri web TV. Città Meticcia, che è un giornale cartaceo, è diffuso in 5.000 copie e in pochi giorni le 5.000 copie che vengono messe in certi punti strategici vengono insomma esaurite. Ciao Crossing TV, siamo a Novi Modenese in occasione della fiaccolata in solidarietà per Nushin, per esprimere cordoglio per la morte della mamma. Nushin è la giovane ragazza di origine pakistana che si è ribellata al matrimonio con. Anche Crossing TV ha sede a Bologna. I redattori hanno tra i 16 e i 25 anni, sono per metà stranieri e metà italiani, metà uomini e metà donne. I loro video vanno alla ricerca di un'Italia giovane e reale, lontana dalla televisione che entra nelle case degli italiani. La leader è Aseb, origini etiopi, blogger per passione ma già ricercatrice all'università. Nasce un'esigenza di vedersi, no? di avere una faccia su cui riflettersi. Questo è fondamentale per noi, non solo i ragazzi italiani o i ragazzi stranieri, entrambi, perché i ragazzi italiani e i ragazzi stranieri convivono nelle scuole piuttosto che nei campi di basket, piuttosto che nei campetti di calcio o al bar, e per quale motivo non dobbiamo rivederli in altri luoghi come quelli della televisione, dell'informazione e del giornalismo. C'è poi un sito che si chiama Associna, fatto da giovani immigrati di seconda generazione che traducono le nuove leggi dall'italiano al cinese. Lo scopo è sempre quello: combattere gli stereotipi e farsi largo nell'opinione pubblica. Tutto, naturalmente, sotto forma di volontariato. La prima edizione d'Italia in Controluce, radio24.it è il sito dove trovate il blog di questo programma. Trovate anche su Facebook il gruppo Radio 24 Italia in Controluce, in Controluce su Twitter, dove potete leggere tutti i giorni in poche righe i programmi di questa trasmissione, la mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi 13:30 puntuali su Radio 24.